7, 5. Forse c'è qualche altro apparecchio acceso. Eia, l'ho spento infatti. E all'ombra, che te ne va bene? Nulla sa, nulla sa. Ho finito di cucinare, spezzatino. No, io c'ho il pollo al forno e sto facendo un po' di gnocchetti col sugo ambroso. I gnocchetti ambroso. Il sugo ambroso, ho detto, con la carne, mi. Io ho capito ambroso. Niente, io mi sono messo a fare lo spezzatino da stamattina alle 6. No, la quindi è tutto pronto, capito? Dopo e cosa mangiamo? Sì, vabbè, ma non bisogna parlare sì. Quando tu ti alzi alle 8, lo spezzatino lo metti a fermaletta, è pronto per mezzogiorno. E vabbè, devi capire che mi alzo alle 5, capito? Non sapevo cosa fare, mi sono pulito le patate, la carne l'ho fatta a pezzi più piccoli, ho preparato il soffritto, la cipolla con l'olio d'oliva, poi ci ho messo la carne, fatemela arrosolare, poi ci ho messo un po' di sugo, poi ci ho messo un po' di acqua, di bottigliette e poi ci ho messo la fine le patate. Hai fatto bene, dai. Andare, mi lasci o mi faccio un po' di pure di patate, perché devo venire gli ospiti a casa e quindi qualche cosa in più la devo fare, se no mai tanto. Gli ospiti a casa? Ah, cioè tuo figlio, tuo nipote? Capo. Ah, capito. È la tua ex? Cosa? È la tua ex? Sì o no? No, no. Ah, pensavo che mi finissi gli ospiti. Andrà bene, sì. Quindi oggi gnocchetti. Sì, sì, gnocchetti. Non ci avevo salsiccia, gli ho messo carne. Gli ho messo carne di mandorla. Cappa. Adesso così innesca se tocco le cuffie, cara. Aspetta che provo l'altro microfono, aspetta. Tony, il tuo K cos'era? Un 680. Non ho capito. Il tuo K cos'è? Un 680. Il mio K, e cos'è il tuo K? Mamma mia, non capisci. Il che? No, cosa c'è? 450. 450? Vabbè, è quello che ho ricoperato, tutto qua. Si è appagato. Cazzo, c'è un coso. Un 140 e 100 euro lo stavo prendendo. C'è scritto in ottime condizioni. 100 euro, ti senta che sarà? Per me è qualche uno che vuole rubare il sud. Senz'altro. Io se questo lo do, se ci perdo 100 euro basta che niente, ma lo do 500 euro, con la colonnina, non me ne frega niente. Quanto lo dai? 500. Con la colonnina? Eia, più la colonnina, se ci perdo 100 euro ma frega niente, perché niente, già la sto accendendo, ma non mi piace, perché non è, diciamo, come aspettavo, è troppo complicato, è per tutto complicato, è cominciato più sì. C'era come gara che lo vedi. E prenditi un 140, ma non complicato. No, mi piace. Cava, cava. Tu se ci metti un microfono tipo un MC60, vai alla grana. Beh, lo so. Devo pensare adesso. Lo mettiamo qua il boom dello baraccolos. Il Mike Gain. Eia. Quello che mi sa che sia 7-8 punti questo microfono qua. Cava, sì, sì, è così. È bello quell'apparecchio, peccato, perché te lo fai spiegare da qualcuno che lo conosce. Già, non gli va da bene, non aveva nessuno. E lo metto senza la frequenza, ha fatto un botto. Accendevo, muro e spegnevo subito, c'è nessuno. Stato là, veloce, tutta. Ma dove? E tutti i canali. Vai su 40 metri a vedere se le trovi di gente. E allora torniamo tutti a capo. Se ti ho detto che non lo so manovrare, non so di andare. Vai su VFO manuale e cerchi la frequenza. Metti USB, VFO manuale e poi cerchi. Dove fai il VFO manuale? C'è un cerchetto io. Enrico, Rick, CSP, 4. sotto a tutti, UFO, lo scanner, voce, proprio l'hanno scannato. Ma tu non riesci a dare le frequenze radioamatoriali? Luce, c'è accendo il NESCO, mi sto riportando da 27.075. Non c'è mai nessuna frequenza, non ne vale la pena. Ha pagato. Ma 500 euro, non so se lo trovi, se non è che lo metti, su subito, roba così. E tu, come stai da singolo? Benissimo. No, io una volta alla settimana mi direi quello lì e boh. E vabbè, anche io stavo uscendo con un attimo. Non mi do per perso io. Mai darsi per perso. Meglio priorità che a metà di zia Righi. KK. E vabbè, meglio soli che mi hanno accompagnato i zia Righi su Buru. E beh, da una parte è così, ma c'è il pro e il contro però già. Perché la compagnia fa sempre piacere, perché con chi parla se no? Non può parlare col cane, o con la banca, con lo frigorifero, ti rifondere. Ma io a casa ci sto poco, io giro, faccio, vado. Non è che stia tanto in casa. E poi ho sempre chi mi chiama a telefono, eccetera, quindi non soffro di solitudine io. A proposito che sei frequenza, ti devo dire una cosa, io sono entrato su Badoo, caso strano c'è una foto oscurata e sei tu, come mai? Oscurata? Ah, perché mi sono cancellato. E tu sei nel profilo dei maschi, io sono solo sulle donne basta, e tu sei entrato nel conto mio e c'è insieme alle altre donne che hanno scolato il profilo, invisibile eccetera, e c'è, io ti ho riconosciuto al volo, maglietta rossa, con gli occhiali, perché ti avevo fatto una battuta, non mi ricordo adesso cosa ti avevo scritto, poi una volta mi sono cancellato, quando ti ho visto ti ho fatto una battuta, però non me lo ricordo, tu lì spaccami un gambo, non mi ricordo cosa ti avevo scritto. E non dimmi cosa è, perché non c'entro, perché devo pagare per entrare. Avrò vostro? No, lui, tu. Quando lo sento già me lo faccio dire, ma se non te lo ricordi. Avevo fatto una battuta. Sì, adesso si paga per tutto, si paga. Prima non si pagava. Se tu andavi da quelle della città, le donne della città, non pagavi. Capito? E vabbè, ho un sito di incontri così, puoi trovare la persona in gamba come puoi trovare una femmina di chi si può così, Ma io ne ho conosciuto un paio, tanto è schifo, non ero italiana però. Come l'ho visto, un caffè, ciao, dice il numero di telefono, te lo do domani. Un cazzo, gli pare il gioco, buco, la pesata. E dove erano? Una era rumena e un'altra, ma te me la grande età, 62 anni, io non capito di che non devo fare, comandante nessuno. Io sono stato fidanzato con una rumena, anche con una russa, però erano badanti, non erano di quelle badraccone. E queste che hai conosciuto adesso che stai uscendo, Badu sempre? No. Non è Badu, è Badà. No. L'ho conosciuta in giro. Scommetto col cane. Esatto. Bisogna che mi piglio un guinzaglio anch'io, cani miei. Così c'ho due cani e così li procuro due alla volta. Ma nulla di serio. Così. Un'amichetta. Cappa, noia. Va bene. E niente, poi stamattina mi sono fatto un salto veloce a pagoda, mi sono preso un po' di pasta. A pagoda? Ma ti fanno male, pagoda, lo sai, io da Portolella non ci sono altro, cioè, i cannoncini che sono lunghi un chilometro, a me non mandare il punto, ma c'è. E pagoda, lo so. Anche io tutte le torte dei compleanni dei miei figli, la crisi, il battesimo, tutto quanto lì ho fatto. C'erano le torte piccoline, altine, rosse, auguri mamma, eccetera, che storia io, fate. Purtroppo noi gli auguri non li possiamo fare. Mamma non c'è più, quindi. Vabbè. Il pensiero già c'è, ma purtroppo. È così. Vabbè. Se la vita è così, Ermituri. La vita è questa. Allora. Niente, io ho fatto gli auguri a tutte le mamme che conosco io, che c'è frequenza su WhatsApp ovviamente, e anche a Lucia, perché anche lì c'è la PKP. E ho fatto gli auguri un po' a tutti. ce l'ho mandato, grazie, non ce l'hai Fizzi? No, non ne ha di grazie. Erano fidanzatissi da poco tempo fa, dai, conviventi, poi si sono sposati da poco, già lo sa. Via. E niente, niente Luigi, ho chiamato qualche volta, ma resi mancanti. Ora non è in ufficio, oppure dopo guardo che c'è poi il servizio seguito, non l'ho più chiamato. No, io grazie, l'ho vista di sfuggita l'altro giorno da nonna Isa, però lì era lontana, io stavo pagando la casa, non potevo manco avvicinarmi, quando sono andato per avvicinarmi era già partita con la macchina, stava caricando la spesa. Monica sta lavorando, da lavorando, va la domenica a portare la mamma di Grazia, cioè Rita, a fare del caffè, la pasta, non lo so come. Adesso meglio sta la mamma di Grazia. No, non me l'ho chiesto, ma penso meglio un po' di più, sì. È meglio così, da. Da paga. No, io non ho più contatti con quella là, non ho più contatti. T'ho cancellata da tutto, non devo più sapere. Che cosa? Non ti ho afferrato perché stavo facendo un'altra cosa. Come la sto dicendo, non c'ho più contatti, l'ho tutta evacuata da tutto, l'ho cancellata da tutte le parti. Minchia, pensavo. Come? Proprio eliminata di tutto? Tutto lì. Sì, sto meglio così. Ah, a me non mi piacciono le persone che ti stuzzicano, ti irritano, ti... No. Mi sembrava te cane e gatti quando c'ero in nota casa tua, raga. E vabbè, quello capita a tutte le coppie, non è che eravamo sempre così, no? È capitato di bisticciare proprio quando la cosa diventa continua, poi alla fine ti rompe. E quindi alla fine te l'hai mandato o te l'hai mandato? No, ce l'ho mandata. Vabbè, e che fine ha fatto? Non lo so e non mi interessa. Allora, no, io invece dico sempre che la elimino quella e invece ogni giovedì è qua. Vabbè, ma tu non sei di polso, tu dici, da voi se la dorme con i chili. Ah! Ma una volta a settimana, un giorno solo, capito? Questa volta non c'entra più. E quando mi vado a incazzare la fuccia, allora, innanzitutto è disordinata, prima base. Io anche le mie cose le guardo già, per esempio in bagno, io ho un rotto per circa, ci sono ancora 10 strappi, e metto anche lo trovo, così si dice quello, lo usa il nuovo, no, lei apriva già il nuovo, lo usavo quello piccolino, e lei mi dà fastidio, così te la fai che è un bambino. Poi ci fa la voce, bagno tutto per terra, e automaticamente poi tutti gli asciugamani butta per terra, te bagnate, un casino, non è ordinata, capito? E poi altre cose che insomma... Vabbè, non c'è nessuno perfetto, però cade trucco e trucco. E poi mi è arrivata una certa lettera, a pure mettere la macchina là di fronte, capito? E là mi sono scatenato, non ce l'ho fatta più. E lei riguarda quello cosa ti ha detto? Non capite, lei? La paga lì? No, non è multa, no. Una lettera di avviso di un avvocato di quelli lì che hanno messo. Io sono andato all'avvocato con Sassi e ho detto guarda, così, tutto l'altro, la foto, ho posteggio la macchina lì a Omedo, giustamente non c'è né un passo a cadaio né un posto disabili e ne stici pedonale. E questa qua è da fastidio perché posteggio la via di tutti. E dice non preoccuparti, ti faccio questo avvocato, non due pagine, due righe e basta, non preoccuparti, non ho pagato niente e non mi hanno più rotto le palle nessuno. Hai visto, è stato in gamba. E poi c'è questo, adesso gliela faccio pagare, la prossima volta io vado a vicino urbano, io almeno, e guarda, sto scendendo in questa via, ho sbattuto la testa alla tenda solare che ha messo la signora, che va a finire sul marciapiede, non deve sporgere così molto, che cavolo, poi è alta, che non mi tocca, invece poi passo l'uomo, cioè il marciapiede c'è piccolino, non va bene così, io stavo guardando il telefonino e mi sono sbattuto, quindi automaticamente chiedo l'intoglierà immediatamente, le faccio fare anche la multa, non faccio niente, tanto che lei ci ha permesso a mandarmi l'avvocato, si è formato invece tramite la mia targa, chiedo io il nome e cognome e mi ha dato la domandata infatti. Vabbè, tu Nida, ti faccio una proposta per quella cosa là, ti chiamo al telefono, Mi chiama. sparito. A T3 fa quello a casa tua. Oh già. Io chiamo a casa, boh, non capisco perché non fate la chiamata. E poi c'è la ciò per il campo, si sente calzernata, beh, c'è quel numero di casa tua e ci ha chiamato.